Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenute. Buona giornata a Peter Bescapè, che regge la parte tecnica, e a Laura Vanossi in redazione. Sentiamo i titoli del giorno veloce veloce. L'amicizia non conosce stagioni. Occhiali da sole, amici dei nostri occhi. 100 città contro il dolore cronico. Accanto ad un grande uomo c'è sempre una grande donna e viceversa, mi sento di aggiungere. Ma se guardate bene, accanto ad un grande uomo, ad una grande donna, c'è spesso un grande amico. Un'amica a quattro zampe, capace proprio con il suo affetto di renderci persone migliori. Scriveva Gandhi, la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali. Io ne sono profondamente convinta, per questo oggi voglio parlare insieme a voi di storie di amicizia tra noi e i nostri amici a quattro zampe, per mandare un appello accorato contro l'abbandono. L'estate, lo sappiamo, è una stagione particolarmente a rischio. L'abbandono, ricordiamo che è considerato reato ed è punibile con l'arresto fino a un anno e con un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, è un problema molto serio perché è una fonte di pericoli. Pensiamo al fenomeno del randagismo, che si traduce in un potenziale rischio di aggressione per le persone, ma pensiamo anche agli incidenti stradali mortali causati proprio da animali randagi, attraversano l'autostrada e c'è l'incidente. In linea con noi per darci qualche numero il dottor Edgar Meyer, presidente dell'associazione Gaia, che è un'associazione che si occupa di animali e di ambiente, e autore del libro Qua la zampa, insieme con Apuzzo. Buongiorno dottore. Buongiorno. Intanto voglio presentarvi anche gli ospiti che sono già qua accomodati qua in studio con me, che resteranno nel corso della trasmissione per mandare il loro appello e per darci proprio una mano, una zampa. È tornato a trovarci il dottor Cervia, arrivato proprio all'ultimo momento, aveva appena lasciato la sala operatoria, un caso difficile. Dottor Cervia, buongiorno. Buongiorno a tutti, comunque si è risolto. Tutto bene, e il dottor Cervia lo conosciamo bene, presidente dell'associazione Amo gli Animali, di cui parleremo nel corso della nostra trasmissione. Abbiamo anche dottor Meyer qua in studio con me, con noi la dottoressa Laura Volonté, che è medico veterinario. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Con una bella pancia. Grazie. Di sette mesi. Aspettiamo Viola. Aspetta un cucciolo. Aspetta un cucciolo anche lei, specialista in etologia applicata e benessere di animali da affezione. Quindi lei ci racconterà un po' cosa, su quali leve, no, lavorare nella relazione con i nostri animali, e insieme al dottor Cervia ci darete anche delle indicazioni pratiche perché le vacanze siano delle vacanze da trascorrere insieme ai nostri animali in serenità. Dottor Meyer, vengo da lei. Allora, diamo qualche numero dell'abbandono. Sono sempre numeri un po' tristi da dare, però vanno dati. Beh, allora, si stima ancora oggi che ci siano circa 100.000 famiglie che ogni anno decidono di disfarsi del loro amico quattro zampe, quindi insomma la stima degli abbandoni è attestata sulle 100.000 unità, che non sono numeri ma sono esseri viventi in carne e ossa che molto spesso poi purtroppo quando sono abbandonati fanno una brutta fine, e quindi stime e cifre che fanno accapponare la pelle, anche se per fortuna il fenomeno dell'abbandono sta vivendo una sorta di mutazione. Sono un po' meno, anche grazie a tutte le campagne insomma che fanno le associazioni e i media, un po' meno gli abbandoni, quelli proprio classici, brutali, in mezzo alla strada. Aumentano però un po' di più gli abbandoni, tra virgolette, di seconda mano, cioè persone che a un certo punto si recano nei rifugi delle associazioni e dicono: non posso più tenere il gatto, non posso più tenere il cane, prendetevelo voi. Quindi insomma un abbandono un po' mediato. Questo anche perché il legislatore per l'abbandono, quello in mezzo alla strada, come avete già giustamente sottolineato, prevede delle multe severissime da 1.000 a 10.000 euro o addirittura la galera, fino a un anno di galera. E perché succede questo? Perché il fenomeno dell'abbandono, oltre a essere appunto ributtante dal punto di vista etico, lo è anche dal punto di vista sociale. appunto gli incidenti stradali. Pensate che Società Autostrade alcuni anni fa diceva che in 10 anni sulla sola rete autostradale c'erano stati 45.000 incidenti causati da animali vaganti, con 4.000 feriti e 200 morti da parte umana, senza contare ovviamente tutti i morti da parte animale. Quindi un fenomeno sociale. Un fenomeno sociale. Dottor Cervia, con la sua associazione, lei è da anni impegnato nella lotta contro l'abbandono, e poi concretamente il dottor Maier diceva, faceva riferimento a questa sorta di abbandono più cauto, sì. Lasciando poi gli animali in canili. Nei rifugi. Certo, dove questo... la vostra fondazione lavora. Perché? Beh, noi lavoriamo per tanti canili, per esempio adesso ci stiamo operando per sterilizzare tutti i cani di Pantelleria, perché cosa succede a Pantelleria? Si sta manifestando un fenomeno che è quello che è capitato poi in Sicilia. Pantelleria è una piccola isola, la Sicilia è un po' più grande, quindi là il fenomeno era più evidente. I cani sono liberi, no? Sono accuditi dalle persone, però non hanno il concetto dell'animale in casa. Cioè l'animale viene, mangia, lo curi, però poi se ne va in giro da solo. Quindi si riproduce, perché non li sterilizzano, si riproduce, quindi diventano numerosi e possono costituire un pericolo per l'uomo, perché poi l'animale si rinselvatichisce, ha confidenza con l'uomo, quindi non è come il lupo che rimane a distanza dall'uomo e non lo vedrai mai. Il cane rinselvatichito può essere un pericolo. Quindi per l'uomo. Noi abbandonando gli animali rendiamo, no? Aumentiamo il numero dei cani randagi, che hanno proprio questa modalità di comportamento. Questa caratteristica, conoscono l'uomo, non lo temono, ma nello stesso tempo sono in grado di studiarne le mosse e di aggredirlo. Dottor Maier, oggi noi raccontiamo storie di amicizia, e perché vogliamo proprio mandare un appello contro l'abbandono, partendo dall'affetto che ci lega con gli animali. Certo. E un po', non gliel'ho chiesto subito, ma il passepartout oggi per entrare nella nostra trasmissione, ne approfitto per ricordare il nostro numero verde, che non ho ancora fatto, presa dall'entusiasmo, 800 24 0024, è una frase, no? Contro l'abbandono. Ce ne regali una anche lei, poi le raccoglieremo, perché avremo tanti ospiti che interverranno, anche frasi dei nostri ascoltatori, le metteremo sul sito, sul nostro sito, anche su quello della Fondazione del Dottor Cervia, e poi magari si sceglierà quella più bella. Ci saluti con una frase. Beh, io la scrivo intanto. A mio avviso l'avete già detta voi, la più bella di tutte, che è quella con la quale io concludo sempre i miei interventi quando vado a convegni, incontri, dibattiti, è appunto questa di Gandhi, che, lo ripetiamo, diceva il progresso morale e la civiltà di un popolo si vede da come tratta i suoi bambini e i suoi animali. Grandiosa, perché viene da un premio Nobel e da una persona al di sopra di ogni sospetto, anche se Gandhi, diciamolo, era vegetariano. Le metteremo sul sito anche di Gaia. Poi, allora, facciamo tutta una serie di siti che si collegano, e affideremo la cosa alla nostra parte tecnica. Io sono veramente incapace di linkare, eccetera, però sicuramente faremo in tutti insieme, grazie anche all'intervento dei nostri ascoltatori, che aspettiamo proprio per lanciare la loro frase contro l'abbandono e raccontarci qualche cosa di caratteristico, peculiare, che proprio individuano nella storia con il loro amico, cane, gatto, che si ma noi ci allargheremo, vero dottoressa Volontini? Parliamo certo. Sempre di cani e gatti, ma ci sono delle storie straordinarie anche con dei coniglietti, con dei pappagallini, anche con delle tartarughe. Quindi vi aspettiamo. Intanto, dottor Maier, io la saluto e la ringrazio per essere stato con noi. Io vi auguro buon lavoro e buone vacanze con il proprio animale. Ecco, ricordo il sito della vostra associazione, che è www.gaiaitalia.it, dove potete trovare anche delle indicazioni per portare con voi i vostri amici in vacanza. Dottor Maier, grazie. Buona giornata a tutti. Ciao Edgar. Ciao. Arrivederci. Allora, gli amici degli animali si conoscono tutti. Dottoressa Volontè, ci sono tante occasioni in cui magari, e soprattutto in estate, l'animale diventa un po' di troppo. Proviamo a sottolineare le più frequenti, e poi intanto diamo là i nostri ascoltatori, perché magari quelli che per una famiglia sono un problema, per qualche nostro ascoltatore ha già trovato una soluzione per suggerire quindi il modo per risolverlo. Sì, allora tenete conto che i motivi per cui i cani e i gatti vengono abbandonati prima dell'estate sono tantissimi. Partiamo soprattutto, ci può essere un motivo di malinformazione da parte del proprietario, per cui un proprietario che parte senza informarsi prima riguardo alle legislazioni, per esempio, che ci sono in determinati stati l'obbligo del passaporto piuttosto che della vaccinazione antirabica. E poi si arriva lì e poi via, si butta via il cane. Si arriva lì al confine con un altro stato e magari un proprietario scopre che non ha fatto la vaccinazione antirabica, oppure il cane non ha il microchip e non ha il passaporto, e lì un proprietario responsabile magari decide anche di tornare a casa o di trovare un veterinario che però possa... la tentazione di disfarsi del cane è alta. Dottor Cervi, un'altra causa di abbandono quale può essere? Beh, vediamo la tipologia del personaggio che abbandona gli animali. È colui che prende il cane per divertimento, non lo rispetta, perché la cosa importante è rispettare gli animali, non è necessario amarli, però la cosa importante è rispettarli. Lo prende a Natale per far giocare il bambino, il cucciolo da un chilo diventa di 10, 15, 30 chili, mangia tanto, può dare fastidio, costa, abbaia, disturba, e quindi lo abbandonano. Queste persone non devono prendere gli animali, assolutamente. Infatti, proprio in una della campagna della vostra fondazione era "se lo adotti per sempre". Esatto. Noi l'abbiamo tradotto un'amicizia a quattro stagioni. Aspettiamo le vostre storie. 824 0024, ci raggiungeranno tanti amici. I messaggi al 349 238 6666. Qua la zampa. Una mela al giorno. Anche l'occhio vuole la sua parte, che di questi tempi, in questa stagione dell'anno in particolare, vuol dire anche l'occhio vuole la giusta protezione. Quindi un bel paio di occhiali da sole capaci di filtrare i raggi UV e la luce blu. I nostri occhi da soli non sanno farlo e quindi dobbiamo pensarci noi. Ci aiuta oggi il dottor Francesco Loperfido, responsabile del servizio di oftalmologia generale presso l'unità operativa di oftalmologia e scienze della visione dell'ospedale San Raffaele di Milano e oculista della Commissione Difesa Vista. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Dottore, lei deve fare un bel appello oggi, deve convincere le mamme a proteggere gli occhi dei bambini, ma deve convincere anche i grandi, perché ci stiamo accorgendo dai dati che la Commissione Difesa Vista mette a disposizione che c'è poca attenzione alla protezione. Ci dica quindi qualche buona ragione per mettere gli occhiali da sole. Il concetto fondamentale è che i bambini sono soggetti che vanno tutelati ancora più degli adulti, perché è un occhio in crescita, sì, perché la sensibilità verso la luce è maggiore rispetto all'adulto e perché molto spesso bambini con gli occhi chiari sono quelli che più soffrono di fotofobia. Questo rende quanto mai indispensabile l'uso non solo di un cappellino protettivo se i bambini sono molto piccoli, molto piccoli, e in aggiunta al cappellino, quando i bambini crescono, un ottimo occhiale da sole. Che preveda cosa? Preveda innanzitutto che sia un occhiale che abbia lenti infrangibili, quindi che non ceda, non si rompa con i giochi dei bambini. E la seconda cosa è che sia una lente di altissima qualità. Cosa si intende per alta qualità? Che sia capace di eliminare l'ultravioletto e soprattutto anche la luce blu, che è questa luce presente tra il visibile e l'invisibile, che spesso si accumula nel tempo dando problemi non solo di cataratta, ma parliamo nella fase più adulta, ma anche di degenerazione maculare. Senta, però anche chi non è più bambino deve comunque proteggersi gli occhi dai raggi UV e da questa luce blu. Indubbiamente occorre anche per l'adulto avere un occhiale estremamente di alta qualità, ma soprattutto che sia un occhiale adeguato alle vere funzioni per cui viene richiesto. Allora, devono avere un marchio CE e soprattutto quando si va presso un centro specializzato, ancora meglio da un ottico, avere dei consigli che siano adeguati alla necessità per cui l'occhiale viene richiesto. Quindi un occhiale che preveda molto spesso anche una certificazione della sua qualità. Ci sono delle lenti super specialistiche che prevedono un certificato di qualità che indica l'uso per cui la lente viene consigliata, montagna, mare, in modo che anche per il più inesperto, sì, ha sotto mano la possibilità di scegliere in maniera adeguata e convincente. Dottore, veniamo invece al colore delle lenti. Se siamo di fronte a soggetti che hanno difetti visivi, dobbiamo riferirci a dei colori molto più precisi e stabilizzati rispetto al difetto. Per esempio, il miope si adegua molto meglio col colore sul marrone, che è la frequenza del rosso, sì, mentre gli ipermetropi con la lente verde-verde-grigio, che è appunto la frequenza del verde, dove gli ipermetropi vedono molto meglio. Quindi ci sono necessità in cui i soggetti che hanno difetti visivi devono comunque proteggersi dal sole, e a questo punto lo devono fare con delle lenti molto più adeguate al loro difetto. Grazie dottor Lo Perfido, buona giornata e grazie, buona protezione anche a lei, mi raccomando. Grazie, gentile. Pronto soccorso. Siamo tornati insieme oggi. Storie di amicizia tra noi e i nostri amici a quattro zampe. Un appello contro l'abbandono. Noi sappiamo che i nostri amici non ci abbandonerebbero mai. Siamo noi, siamo l'unico vivente, no? L'unico animale capace di un gesto di questo di questa crudeltà, dottor Cervia. Certo, no? Anzi loro ci perdonano. Cioè se noi gli facciamo un torto, comunque sono sempre disposti a perdonarci. Il cane perdona il padrone. Tu dicevi giustamente prima, a fianco di un uomo importante c'è sempre un cane. In realtà però molto spesso a fianco di un cane importante non c'è questo padrone che si meriterebbe di avere. Io penso che siamo così assolutamente certi che il cane è una persona affidabile, ma è affidabile, che ci sono proprio delle relazioni basate proprio sull'affidabilità del cane. Penso a quella che lega Monica a Leo. Monica, benvenuta, ciao! Ciao, benvenuta, grazie e un buongiorno agli ospiti in studio e a tutti i radioascoltatori. Confermo quello che hai appunto detto. Ho anch'io uno slogan. Sì. Il cane è un amico che porta amici. Posso dirlo perché è da un anno e mezzo che ho appunto Leo, questo cane guida che è ai miei occhi, che è appunto un amico che mi accompagna, e grazie a lui, oltre ad abbattere le barriere architettoniche, abbatto quotidianamente le barriere sociali, perché davvero quando hai un cane si avvicina tantissima gente che chiede informazioni, che aiuta e che impari a conoscere e impara a conoscerti, perché è vero che la maggior parte delle persone che abbandonano i cani sono perché crea a loro un disagio, però è vero anche il contrario, è che purtroppo, io mi limito a dire forse l'Italia, le strutture italiane sono anche poco ben predisposte all'accettare un cane. Molti di non vedenti che si accompagnano ai cani purtroppo devono tirar fuori spiacevolmente le leggi ed è sempre una cosa un po' triste. Certo. E quindi facciamo anche un appello alle strutture che siano un pochino più aperte. Nello stesso tempo però i padroni devono essere più accorti, perché purtroppo è un cane che si morde la coda, nel senso che per restare in tema, giustamente, sì, Monica. Se un padrone, se un amico di un cane si comporta in maniera diseducativa col cane, logicamente poi chi lo deve accogliere ci pensa due volte. Monica, tu offri una palla al dottor Cervia, che questo è uno dei suoi temi forti, ma io volevo, tu dici un amico che crea amici, perché aiuta a superare. Il cane no, ti aiuta a socializzare. Ecco, ma, e per un non vedente, un ipovedente è importante, soprattutto volevo, Monica, il tuo cane, tu hai detto sono i miei occhi, ti accompagna, ti crea amici, ti protegge, ti permette anche di uscire la sera, perché so che, e questo mi preme sottolinearlo, Monica è guida, ha un'iniziativa bellissima che è al terzo anno, è Caffè Noir, Dialogo nel Buio. Non so se voi siete stati, dottor Cervia, no. Dottoressa Volonté, quindi siete invitati, Radio 24 è la radio ufficiale, sì, degli ipovedenti e non vedenti. È un'occasione davvero bella perché l'Istituto dei Ciechi di Milano è magnifico, ci sono delle guide non vedenti che ti accompagnano in Dialogo nel Buio. Monica, tu sei confermo, una di queste, vero? Esatto, confermo. E poi c'è la piacevolezza di stare a passare una serata magari sotto, esatto, le stelle, a chiacchierare con un po' di musica, a prendersi un aperitivo, tutto questo nel cuore di Milano. E perché Vivaio, no, no, laddove ci fosse consiglio sì. di conoscere eventualmente. Allora, per gli ascoltatori di Radio 24, quindi cercate di Monica, cercate Leo e se amate gli animali date una carezzina per noi a Leo. Monica, un abbraccio, grazie per essere stata con noi. Diciamo magari gli orari, quindi dal lunedì alla domenica, quindi 7 giorni su 7, dalle 19 alle 24. Non occorre la prenotazione. Ed è una maniera, se vogliamo, per poi chiederlo a noi, per amare ancora di più anche i nostri amici a quattro zampe, per capirne ancora di più l'utilità, l'affetto, le grandi cose che ti possono veramente dare. Allora Monica, grazie per il tuo lavoro, grazie per essere intervenuto, una carezzina a Leo, Caffè Noir e Dialogo nel Buio, sicuramente a proposito di relazioni sono delle iniziative che avvicinano. Grazie a Monica. A presto Monica. Grazie. Grazie. Abbiamo il tempo in linea con noi, abbiamo Massimo dalla provincia di Pavia, buongiorno Massimo. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Massimo, per entrare oggi lei deve dire una frase, scusi, devo essere proprio imparziale. Direi, guarda i tuoi amici a quattro zampe negli occhi, non riuscirai a abbandonarli. Ok, questa è la frase di Massimo, grazie nostra, Massimo. Prego, la nostra esperienza mia e di mia moglie è che vabbè, fortunatamente viviamo in campagna, abbiamo un po' di terra. Abbiamo 2 cani, 5 gatti, 30 colombi, 4 oche, un po' di galline, tutte allevate, curate rigorosamente per un utilizzo non alimentare, voglio dire, certo. Solo per compagnia. Sono tutti animali che sono stati presi, per esempio soprattutto i cani e i gatti, in canili, in gattili, alcuni recuperati per strada noi per esempio, tanto per dire, voglio dire, alla sera invece di uscire, di fare cose, ci mettiamo seduti in giardino con le nostre oche che si accovacciano attorno a noi una serata in compagnia. Grazie Massimo per la sua testimonianza. Saluto un altro amico, Gianni Politi, che è venuto a trovarci. Gianni, grazie. Grazie a voi, buongiorno. Gianni, una frase tua, che segniamo anche la tua. Contro l'abbandono. Contro l'abbandono? Sì. Non adottate i cani, perché se li dovete adottare per abbandonarli, io sono per la prevenzione. Cioè, quindi non bisogna stare a spiegare alle persone incivili che il cane non deve essere abbandonato. Non li adottate proprio. Questa è la frase. Bravo, bravo. Gianni, sono assolutamente d'accordo con te. Gianni, tu si raccontano storie tue per una passione nei confronti dei gatti, ma io so che ami anche i cani, cioè tu ami gli animali. Sì, quando capita che uno va dal veterinario per portare il gatto e poi passi davanti alle gabbie e vieni a sapere che quel cane è stato portato lì dai volontari di un comune, poi il cane è stato curato, è stato medicato e poi non si sa perché il cane sta ancora lì dentro la gabbia perché non lo vanno a ritirare. Cioè, è chiaro che uno il minimo che può fare lo prende e lo libera. Eh sì. Ho fatto liberare alcuni cani in provincia di Lecce perché siccome si era chiuso il canile di un comune e niente, c'era questo cane che era anche sovradimensionato. Praticamente non riusciva a stare in piedi, era un mese che era guarito e nessuno andava a riprendere. Cioè, cose da pazzi, no? Dottor Cervia, sono frequenti anche queste... Sì, sono molto frequenti, certo. A me è capitato poco spesso, però comunque so di molti miei colleghi che si ritrovano. Si ritrovano dei cani, vengono lì. Oppure addirittura ci sono dei veterinari che arrivano la mattina davanti al loro studio e trovano un cane legato davanti alla porta. Perché si è evoluto così il fenomeno dell'abbandono. Gianni Politi, quindi il messaggio di Gianni Politi, che ama i gatti, ama i cani, ama gli animali, è un messaggio che è legato alla prevenzione. Non adottateli. Non adottate gli animali se poi li dovete abbandonare, perché tanto voglio dire, la vostra insensibilità non è che vi porta al rimorso, ma evitate, se sentite di persone che sono incivili nella vita con il prossimo, saranno incivili anche con gli animali, ovvio. Certo. Se sentite che dice, ah sai, ho trovato un cane, ecco, o glielo levate di mano subito, oppure trovate la maniera di convincerli a non adottarli, perché poi la fine è quella. Già segnata. Gianni, grazie, un abbraccio. Anche a voi. Buona giornata, buon lavoro a te. 824-0024, devo dire che Gianni Politi è stato bello, no? Centrato, categorico. Io sono assolutamente d'accordo con lui. 349-238-6666, secondo me l'amicizia è 4 stagioni e per sempre, non si scappa. Oggi devo dire che facciamo una puntata dedicata a chi ama gli animali. Parliamo appunto delle storie di amicizia, ma vogliamo anche mandare un appello a chi gli animali non li ha in casa, per dire anche voi potete fare la vostra parte. Se vedete qualcuno che abbandona un animale, denunciatelo. È importante. Ecco, perché uno può decidere: no, io non riesco ad organizzarmi, non ho un trasporto verso gli animali, però tutti noi siamo responsabili di questo fenomeno che abbiamo visto in apertura a dei dati molto preoccupanti. Però voglio aprire una parentesi, voglio parlarvi di un'iniziativa della Fondazione ISAL. L'ISAL è l'Istituto di Ricerca e Formazione in Scienze Algologiche. Questa iniziativa si chiama 100 città contro il dolore ed è un manifesto, direi anche però una sfida, contro il dolore cronico, che ricordiamo è uno dei maggiori problemi della salute pubblica che interessa tutte le fasce d'età, in particolare noi donne. In linea con noi abbiamo il dottor Cesare Bonezzi, che è neurochirurgo e terapista del dolore alla Fondazione Maugeri di Pavia ed è componente del Comitato Scientifico ISAL. Buongiorno dottore, benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a lei, buongiorno. Dottore, sono 12 milioni gli italiani che soffrono di una malattia chiamata dolore, per la quale ricevono poche cure e in tempi molto lunghi. Sì, la verità è questa, abbiamo una quantità enorme di popolazione che ha dolore cronico, che non è da confondere con il dolore da cancro, è dolore legato o a delle malattie in corso o a danni che abbiamo subito nel nostro corpo che hanno generato questo dolore cronico. Non è un sintomo solo, ma è una vera e propria malattia, nel senso che sconvolge la vita, altera la psicologia della persona, il comportamento, la famiglia, tutto quello che è anche la vita di tutti i giorni. Queste persone, è vero, hanno un ritardo nella loro trattamento, nella loro cura, nella loro presa in considerazione. Il ritardo è un po' legato a fattori culturali, nel senso che chi è intorno a chi soffre non percepisce il dolore di chi lo prova. E questo siamo abituati, no? Siamo abbastanza soli da tutta la vita nel nostro dolore. Dottor Bonezzi, ma c'è anche una mancanza proprio di conoscenza da parte delle persone che soffrono di dolore cronico? Non sanno che esistono dei centri deputati alla cura del dolore? Assolutamente, del cittadino e del medico e anche degli specialisti che abbiamo intorno, perché tutti conosciamo il cardiologo, lo pneumologo, il ginecologo, eccetera, è quasi entrato nella nostra cultura tradizionale, no? Chissà perché quando uno ha un dolore anginoso immediatamente viene mandato dal cardiologo, quando uno ha un mal di testa da chi viene mandato? Chi ha il mal di schiena? In genere comincia a girare vari specialisti, che ognuno offre quello che la sua cultura specialistica gestisce, ma non prendono in considerazione il dolore cronico, sono pazienti abbandonati in un certo senso, questo. Quindi, diciamo shopping sanitario, no? Uno shopping sanitario per evitare, per ridurre le liste d'attesa, per ridurre il dolore, per aiutare le persone che si confrontano con questa malattia ad avere una qualità di vita migliore. Dottore, questa è una sfida che lancia il vostro manifesto, la creazione di una rete. Ormai noi siamo i vecchi cultori della materia e stiamo cercando di creare all'interno delle diciamo politiche regionali e nazionali la coscienza che bisogna creare questa rete. 100 città contro il dolore, allora è una di queste iniziative proprio. Buon lavoro dottor grazie, Bonezzi, grazie, l'iniziativa è molto bella, noi la seguiremo sicuramente. Grazie. E noi ringraziamo voi dell'aiuto che ci date. Buona giornata. Anche voi. Allora, abbiamo in linea con noi Chiara, che ci chiama dalla provincia di Milano, 824-0024, se volete raccontarci qualcosa di particolare della vostra storia con il vostro amico a quattro zampe e approfittare per convincere le persone che magari stanno partendo per le vacanze, si trovano con un animale che in qualche modo le impiccia, a pensarci. E soprattutto, come diceva Gianni Ippoliti, non adottate, se non nel caso, meglio prevenire che curare. Chiara, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno, vi ringrazio per darmi l'opportunità. Io volevo in breve raccontare la mia esperienza. Io fin da piccola ho sempre voluto il cane, però vivendo a Milano in un appartamento è sempre stato un po' difficoltoso. I miei genitori avevano paura che io non me ne occupassi adeguatamente, fino a che finalmente è stato il regalo di laurea questo cuccio. Nel frattempo cercavo di fare la volontaria nei canili, portandoli fuori, dedicando il mio tempo il sabato e la domenica in un banalissimo parco milanese portando fuori il mio cane. Ho conosciuto quello che due domeniche fa è diventato mio marito. Ecco, lui, Monica anche... diceva proprio che il cane fa, no, fa socializzare, esatto, fa addirittura esatto. Sposare, fa trovare marito. Sposare in una città come Milano, dove magari a volte gli incontri possono essere difficili, tutti i giorni, quotidianamente, portando il cane al parco, mio marito abbiamo tuttora un boxerino, quindi anche lui portava il cane al parco, ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati e due domeniche fa appunto ci siamo sposati. Abbiamo trovato peraltro un prete che appunto ha riconosciuto che i cani sono stati l'occasione del nostro incontro, quindi una parte fondamentale non solo della nostra vita ma anche della nostra storia. Per cui erano in prima fila come testimoni in chiesa con una bellissima omelia, quindi al di là del detto come un cane in chiesa, no? Sì. E invece ci sono stati testimoni del nostro amore e sono i nostri, per il momento, i nostri bambini pelosi. Mi raccomando, non litigate però adesso, sono la colpa del cane. Allora Chiara, grazie, una bella storia, un po' da come la carica dei 101, no? Certo, loro vero. Si conoscono proprio così. Li avete portati in viaggio di nozze, Chiara, a proposito di vacanze? Per il momento non siamo ancora andati in viaggio di nozze, nel senso che abbiamo fatto una settimana in montagna appunto con loro, proprio perché per non lasciarli, perché non avevamo la possibilità. Poi ad agosto, quando faremo il viaggio di nozze, ci siamo organizzati proprio perché hanno la possibilità di stare con i nonni. Vede, con i nonni in montagna al fresco. Magnifico, grazie Chiara. Grazie a voi, buona giornata. E in linea con noi abbiamo Alessia Fabiani, vi abbiamo detto che vengono personaggi famosi che ci raccontano di queste straordinarie storie di quotidianità. Alessia, benvenuta. Ciao, ciao Alessia. Buongiorno a tutti quanti, ciao Mauro. Alessia, la tua frase contro l'abbandono. La mia frase contro l'abbandono è i cani sono meglio delle persone, quindi non abbandoniamoli, teniamoli con noi, altrimenti siamo più bestie delle bestie. È vero, Alessia. Questo è il mio slogan, perché ho sempre pensato questo, da piccolina non potevo avere gli animali e invece adesso che sono diventata grande ne ho addirittura tre, li ho presi tascabili, ma... Tascabili, perché formatomi dei chihuahua minuscoli erano. Senti, ma tu Alessia, che ti sposti tanto per lavoro, quando ti sposti questi micro amici sempre con te? Motivo, sì, li ho presi tascabili per questo, dentro una borsa ci sono tutti quanti, fino adesso, fino a pochi giorni fa erano due, Martino e Stufi, una coppia bellissima, che lo stesso ho voluto prendere insieme per farli stare comunque in compagnia anche le poche ore magari dove sono impegnate e non possono proprio stare con me, li lascio a casa, sono cani da casa, quindi comunque sono molto tranquilli, coccolati nelle loro cucce, non si mettono mai per terra, hanno sempre bisogno di un appoggio comodo, confortevole, e sono proprio cani da coccola, quindi voglio dire... E adesso sono diventati tre. Adesso sono diventati tre grazie anche al nostro veterinario Mauro Cesare, che ci ha aiutato in questo parto difficile, perché Stufi era un cane davvero di piccolissima taglia. Quanto era piccolo il pupetto di piccolissimo, minuscolo, come un dito indice. Adesso non so se Mauro mi ha aperto gli occhi. Mi ha visto sulle foto. stato anche che gli ho mandato, è diventato un po' cicciottino, è sempre attaccato al seno della mamma e viene su che è una meraviglia. Ha aperto gli occhietti, ancora non ha i denti, è stupendo, è una nuova vita. Dovete svezzarlo, ragazzi. Allora, Alessia con questi suoi tre amici pret-à-porter piccoli, che viaggiano sempre con lei, e volevo chiedere Alessia, la nostra dottoressa Volonté. Alessia dice: mi ho presi proprio in coppia perché le rare volte che stanno solo si tengono compagnia. Sì. Un commento da una comportamentalista, ci ha preso Alessia? Certo, allora il fatto di prendere due cani anziché uno può essere utile per agevolare proprio i problemi che ci possono essere nei cani quando rimangono soli. Cioè, può capitare che i cani, se rimangono completamente soli in casa, hanno proprio delle crisi d'ansia. E spesso quelle crisi d'ansia che si manifestano anche in mille modi, anche con distruttività, problemi coi vicini perché abbaiano tutto il tempo. E il fatto di avere un altro cane come compagnia o come distrazione all'idea di essere lasciati solo può essere d'aiuto, anche se non sempre funziona. Infatti, quando io avevo Martino da solo, quindi che il primo chihuahua, il maschio, a volte appunto lo lasciavo da solo in casa e quando tornavo era proprio, mi accorgevo che era triste, per questo che gli ho regalato Stufi, che ormai è una grandissima, può essere una compagna di gioco, vero? È paradossale, perché io proprio per me i cani davvero sono meglio delle persone, quindi io, è come se fossero una famiglia a parte, non so, mia sorella Alessia, che carina. Voglio raccontarvi una cosa veloce su Alessia. Sì, prima delle strade. Sì. Allora, Alessia, io l'ho conosciuta perché mi ha chiesto di andare nei canili a fare il volontariato. È vero che lei è dei piccoli chihuahua, dei cani quindi un po', diciamo, snob, però in realtà il suo desiderio è quello di fare volontariato nei canili, che è quello che io consiglio alle persone prima di prendere un animale. Cioè, andate a vedere, a toccare con mano qual è la realtà. Sì, perché quando poi uno ha un cane a casa bisogna occuparsene, quindi si porta fuori, bisogna raccogliere la cacca. Esatto. Ecco, tanto per essere papale, bisogna stare attenta che non bisticci con gli animali, quindi mi sembra un'ottima idea. Alessia, un abbraccio. Grazie a tutti, ciao Mauro. Ciao Alessia, ciao. Presto. Ciao. Degli animali, carogne, ciao. In linea con noi abbiamo Rita da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Allora, so che devo darle subito la frase? Sì, Rita, dopo, però me la dia, ci un tengo. Un po' crudina. Il vero bastardo sei tu che abbandoni. Noi prendiamo nota, il vero bastardo sei tu che abbandoni. Ecco, sì. Perché purtroppo già sono contrario al fatto di chiamare bastardini i poveri amici abbandonati. Mm. E comunque, noi viviamo da sempre con animalini che troviamo a destra e a sinistra in condizioni pietose e poi dopo diventano nostri compagni a vita. Sì. Ecco, e la nostra vita bene o male dipende dai loro ritmi. Non è affatto un sacrificio, anche se certe volte è abbastanza duro, però... Quanti amici hai, Rita, a casa? In questo momento siamo in macchina, abbiamo due gatti, uno si chiama Tom, ho trovato l'anno scorso sotto una macchina in stato pietoso, e l'altro è Paco, ha 6 anni, anche lui trovato in stato non pietoso di più, a 3 mesi e pesava 300 grammi, nutrito con una siringa abbeverato con una siringa per circa 20 giorni per fargli recuperare un po' di peso e poi... Rita, e stanno viaggiando con voi, sì, tranquilli e felici? Perché Rita... Tranquilli un po' meno, felici sicuro. Senti Rita, perché parlando con la dottoressa Volonté, prima di andare in onda, molto spesso le persone trovano, non conoscono bene l'animale, magari ce l'hanno da Natale o da qualche mese, il primo viaggio importante, si accorgono che il cane o il gatto soffre la macchina e diventa, invece che andare dal veterinario e parlarne, allora inizia a diventare scomodo questo, certo, animale che improvvisamente ti sporca la macchina, si agita eccetera, allora meglio scaricarlo. Invece bisogna parlarne con il veterinario, perché Rita ci dice che non sono tranquilli ma sono felici, quindi Rita li trasporta, e come Rita possono farlo la tutti. La cosa importante è parlarne col veterinario, come diceva il dottor Cervia, qualche mese, anche un mese prima di partire, perché comunque il cane può soffrire la macchina per un problema organico, per cui avere tipo la nausea come capita alle persone, oppure può soffrire la macchina perché è ansioso, per ecco, uno stato sono di tutti agitazione. i problemi che ci danno i nostri amici sono tutti risolvibili. Esatto. C'è una persona che può aiutarci a farlo, che è il veterinario. Certo. E quindi Rita, ti ringrazio per essere stata con noi, buona giornata, buona gita. Grazie mille. E ci ha raggiunto Roberta Giarrusso. Roberta, benvenuta. Buongiorno. grazie. Io sono molto contenta perché Roberta Giarrusso è un'attrice che a me piace in modo particolare, è bella, sì, e brava. Grazie. Io invece sono contenta di partecipare alla vostra trasmissione perché io sono un amante dei cani e degli animali in generale, per cui per me è un onore e un piacere poter essere presente alla vostra trasmissione. Roberta, quando tu ti sposti, come fai a, sì, il tuo amico, chi lo tiene o come lo trasporti? Il mio Achille, io ho un chihuahua da 4 anni e col fatto che io comunque faccio l'attrice e sono spesso in giro per lavoro, ho fatto la scelta di avere comunque un cane piccolo e comunque comodo da trasportare, per cui lui lo porto veramente ovunque, in aereo viaggia con me, nei negozi entra con me, al ristorante spesso me lo fanno entrare, o comunque insomma vedo cerco che... sempre di trovare una soluzione per portarmelo dietro perché vivo da piccoli... sola e non posso lasciarlo a nessuno. Dottor Cervia, cane da borsetta, un cane da borsetta che comodo, diciamo che lui non è proprio da borsetta perché non sono proprio quelli toy, lui è più grande, pesa 3 kg, quindi lo porto proprio al guinzaglio. Quindi questa è un'altra indicazione, Roberta. Sì. Il dottor Cervia diceva prima di farvi venire in mente, sì, di adottare un cane, perché è un Gianni Ippoliti, esatto, che io do a queste persone che magari spesso viaggiano, che comunque non possono, magari non hanno un giardino grande a casa. Se si vogliono fare un cane, farsi un cane piccolo, comodo, che comunque sono comodi. Sì, prate, ma brutto, sì, dirlo, ma è vero, perché sono trasportabili. Comunque, e comunque ti dà le stesse soddisfazioni. Sono invadenti, esatto. Poi sì, dà le stesse soddisfazioni di un cane grosso. Roberta, anche per te la frase da lanciare oggi a ricordo di questa trasmissione in cui tutti gli ascoltatori di Radio 24 e molti personaggi dello spettacolo si sono un po' impegnati a così buttare, sì, una piccola goccia, anche se alcuni ascoltatori dicono non basta mandare a pelle. Mi hanno bruciato una frase bellissima che avevo letto poco tempo fa, che l'ho sentita prima dire a una vostra intervistata, che era: i bastardi sono quelli che ti abbandonano, no? Sì. In realtà era questo quello che volevo dire, cioè comunque sia bisogna pensare che quando si fa la scelta di avere un cane è un impegno, una grossa responsabilità. Sono animali che comunque hanno un cuore, che ci amano e che ci rispettano, per cui dobbiamo amarli altrettanto e rispettarli. Grazie questo. Roberta, per essere stata con noi, buon lavoro, buon tutto, una carezzina al tuo cane. Grazie da parte mille, nostra. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Ciao. Io volevo, prima siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, abbiamo trascurato un po' i gatti, come se fossero, no? Perché il gatto di solito sembra più facile da gestire. È più vero? Facile, il gatto viene abbandonato meno del cane. E poi il gatto è un animale che comunque, anche se è sbagliato abbandonarlo, può cavarsela, il cane no, il cane dipende al 100% dall'uomo, quindi senza l'uomo che l'ha tenuto nella sua casa fino allora non riesce a sopravvivere, mentre il gatto, bene o male, magari si aggrega delle colonie di gatti e riesce bene o male a tirare avanti finché qualcun altro magari lo prende. Poi non diventa aggressivo come il cane. Non diventa, no? Poi ci sono le gattare magnifiche. Esatto, però questo non vuol dire che bisogna abbandonare, sì, il gatto, che anzi, hanno, assolutamente. Che vengono incontro appunto a queste situazioni di emergenza. Allora, in linea con noi l'abbiamo aspettato, guardami negli occhi, tra parentesi, quando mi abbandoni, e io volevo, l'ho rubata perché è il titolo del libro di Giorgio Panariello e secondo me è la frase migliore per mandare un appello contro l'abbandono. Giorgio, benvenuto, grazie mille. Grazie a voi, grazie di avermi ospitato. Io penso che quella frase, insomma, quella riassuma un pochino tutto, perché effettivamente ci vuole veramente un bel coraggio. Io sul fatto dell'abbandono ho sempre pensato con quale coraggio si può fare veramente, ci vuole un coraggio da leoni e soprattutto bisognerebbe trovare il coraggio di guardare negli occhi, mentre molto spesso li lasciamo là, gli giriamo le spalle e ce ne andiamo. Sai che queste sono cose che sono sempre molto difficili da dire senza rischiare la retorica e con poco tempo a disposizione, però vedi, credo che sull'abbandono noi arriviamo sempre un pochino tardi, sempre durante l'estate, alle porte d'estate. Io credo che le istituzioni, credo che gli enti locali, tutti gli organi deputati devono fare qualche cosa molto prima, cioè anche, non lo so, convincere le strutture alberghiere ad accogliere gli animali, perché molto spesso questo accade perché in vacanza nessuno quasi... pochissimi accolgono gli animali negli alberghi, sono sempre mal visti, nelle spiagge non li vogliono, da quell'altra parte non lo vogliono. Allora molto spesso molte persone lo fanno proprio per essere liberi, certo, di potersi muovere, di andare in vacanza. E poi bisogna giocare, Giorgio, con la prevenzione, quindi esatto, se non siamo, cioè piuttosto non adottiamoli. Giorgio, io devo salutarti perché la mia trasmissione finisce qua, devo dare la linea a Deborah Rosciani. Un saluto a Giorgio Panariello, che ringrazio in modo particolare, il suo libro è bellissimo, ve lo suggerisco. Sì, sì, lo so. Mi spiace, cioè, ciao, sembra, Giorgio, ma devo ciao dirlo perché mi piace davvero. Giorgio, grazie. Dottoressa Volonté, buona pancia. Grazie. Dottor Cervia, noi ci sentiamo, saluto a tutti, vi ricordo Amo gli animali, che è anche su Facebook. Certo, certo. Ok, ho detto tutto, scappo, buona giornata, a domani. Essere e benessere.